al punto di partenza. Quindi il corteo sta finendo. Torniamo alla Villa Medicea. Prima di arrivare vogliamo ringraziare e ringraziarti tutte, tutti e tutto per questa giornata di mobilitazione. Non è stata semplice. Questa base vorrebbero costruirla nel mezzo di terreni agricoli e noi non siamo abituati a fare cortei fuori dalle città, se non per quelli che ci hanno visto e ci vedono in Val di Susa e pochi altri casi. Quindi vi ringraziamo per aver portato i vostri corpi qui e aver fatto questi chilometri sotto il sole. Noi abbiamo provato in tutti i modi a cercare di rendere attraversabile questo corteo a grandi e piccoli e piccole e anziani e anziane, anche agli animali. Ora arriviamo, ci sarà ancora qualche intervento dell'acqua e vogliamo però dirvi che questo è un primo invito, ce ne saranno altri, quindi speriamo di rivederci presto.